Il rapporto con Dio. La domenica in Albis mi riporta alla memoria un'antica e pia tradizione della mia terra. Nel giorno in cui la liturgia invita a desiderare l'alimento spirituale, bramate il puro latte spirituale. Un tempo c'era l'usanza di portare la Santa Comunione ai malati, e non soltanto ai più gravi, perché potessero compiere il precetto pasquale. Nelle città più grandi ogni parrocchia organizzava una processione eucaristica. Ero allora studente universitario e ricordo che era normale che si incrociassero in una piazza al centro di Saragozza anche tre di quei cortei, tutti formati di soli uomini, migliaia di uomini, con grandi ceri accesi, gente forte che accompagnava Gesù sacramentato con una fede più grande ancora di quei grossi ceri che pesavano vari chili. La notte scorsa, le varie volte che mi sono svegliato, ho ripetuto come giaculatoria, come bambini appena nati. Pensavo che questo invito della Chiesa si adatta molto bene a tutti noi che sentiamo la realtà della filiazione divina. Perché se conviene essere molto forti, tenaci e ben temprati per poter influire nell'ambiente in cui ci troviamo, tuttavia è cosa davvero buona che davanti a Dio ci consideriamo sempre la strega di figli neonati. Siamo figli di Dio. Come bambini appena venuti al mondo, bramate il latte limpido e puro dello Spirito. È stupendo questo versetto di San Pietro e capisco bene perché la liturgia abbia aggiunto subito dopo: esultate in Dio nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe che è anche il nostro Signore e nostro Padre. Preferisco pertanto che oggi voi e io meditiamo, più che sul Santo Sacramento dell'altare, che strappa al nostro cuore le lodi più elevate per Gesù, sulla certezza della filiazione divina, fermandoci a considerare anche alcune delle sue conseguenze per coloro che vogliono vivere con nobile impegno la fede cristiana. Per motivi che non occorre ricordare, ma che ben conosce Gesù che ci precede nel tabernacolo, la vita mi ha condotto a sapere in modo tutto particolare di essere figlio di Dio e ad assaporare la gioia di mettermi nel cuore di mio Padre per rettificare, per purificarmi, per servirlo, per comprendere e scusare tutti. Per questo desiderio, ora, insistere sulla necessità per voi e per me di scuoterci, di ridestarci dal sonno molle che tanto facilmente ci intorpidisce, per tornare a percepire in modo più profondo e più immediato la nostra condizione ai figli di Dio. L'esempio di Gesù e il suo peregrinare lungo le strade di Palestina ci aiutano a farci compenetrare da codesta verità. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, leggiamo nell'Epistola, la testimonianza di Dio è maggiore. In che consiste la testimonianza di Dio? La risposta è ancora in San Giovanni. Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin da ora siamo figli di Dio. Nel corso degli anni ho cercato senza cedimenti di fondarmi su questa gioiosa realtà. La mia orazione in ogni circostanza è stata la stessa, pur con toni differenti. Gli ho detto: Signore, tu mi hai messo qui, tu mi hai confidato questa o quella cosa, io confido in te. So che sei mio Padre e ho sempre visto i piccoli fidarsi pienamente dei loro genitori. L'esperienza sacerdotale mi conferma che l'abbandono nelle mani di Dio spinge le anime ad acquistare una pietà forte, profonda e serena, che incoraggia a lavorare sempre con rettitudine di intenzione. Esempio di Gesù. Con molta gioia ho diffuso dovunque quella mentalità di piccoli figli di Dio che ci fa gustare queste parole, accolte anch'esse nella liturgia della Messa. Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, supera le difficoltà, raggiunge la vittoria nella grande battaglia per la pace delle anime e della società. La nostra saggezza, la nostra forza si fondano proprio sulla convinzione della nostra piccolezza, del nostro nulla davanti a Dio. Tuttavia è Lui che ci spinge, al tempo stesso, a muoverci con fiduciosa sicurezza e a predicare Gesù Cristo, il suo unico Figlio, nonostante i nostri errori e le nostre miserie, purché non manchi mai, accanto alla debolezza, la lotta per superarla. Mi avete sentito spesso ripetere il consiglio della Sacra Scrittura: discite benefacere, imparate a fare il bene, perché non c'è dubbio che dobbiamo imparare a insegnare a fare il bene. Dobbiamo cominciare da noi stessi, impegnandoci a scoprire qual è il bene da desiderare per ciascuno di noi, per ciascuno dei nostri amici, per ogni persona. Non conosco via migliore per considerare la grandezza di Dio. Imparare a servire avendo sempre presente il fatto ineffabile e semplice che Egli è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Fissiamo di nuovo gli occhi sul Maestro. In questo momento forse anche tu senti il rimprovero rivolto a Tommaso. Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato. Non essere più incredulo ma credente. E come l'Apostolo farei rompere dalla tua anima con sincera contrizione il grido: Mio Signore, mio Dio. Ti riconosco finalmente come maestro e ormai per sempre, col tuo aiuto, farò tesoro dei tuoi insegnamenti e mi sforzerò di seguirli con lealtà. Addentrandoci nelle pagine del Vangelo, riviviamo la scena in cui Gesù si è ritirato in orazione e i discepoli sono vicino a lui, forse contemplandolo. Quando ebbe terminato, uno di loro si decide a chiedergli: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome. Notate quanto è sorprendente la risposta. I discepoli convivono con Gesù e nel corso delle loro conversazioni il Signore insegna come devono pregare. Rivela il grande segreto della misericordia divina. Siamo figli di Dio e possiamo intrattenerci fiduciosamente con Lui, come il figlio che conversa con suo padre. Quando vedo che alcuni, come alcuni impostano la vita di pietà, il rapporto del cristiano con il Signore, presentando un'immagine sgradevole, astratta, esteriore, infarcita di cantilene senza anima che favoriscono l'annominato invece del colloquio personale, a tu per tu con Dio nostro Padre, l'autentica orazione vocale non è mai anonimato. Mi torna alla mente l'ammonimento del Signore. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno, ancora prima che gliele chiediate. Un padre della Chiesa commenta: Mi sembra che con queste parole Cristo condanni le lunghe preghiere. Lunghe non per la loro durata, ma per la moltitudine delle parole, per l'infinità dei discorsi. Quando Gesù ci propone l'esempio di quella vedova che piegò con l'insistenza delle sue preghiere, quel giudice crudele e spietato, oppure quello dell'uomo che andò a trovare il suo amico nel mezzo della notte e lo fece alzare dal letto quando già era addormentato, non tanto per effetto dell'amicizia quanto per la sua insistenza, vuol dire a tutti noi un comando. Noi dobbiamo cioè supplicarlo continuamente, non offrendogli una preghiera lunga fatta di mille parole, ma esponendo semplicemente le nostre necessità. In ogni caso, se avete cominciato la vostra meditazione e non riuscite a concentrare l'attenzione per conversare con Dio, ma vi sentite aridi e vi sembra che la testa non sia capace di esprimere neppure un'idea, o i vostri affetti rimangono insensibili, vi consiglio quello che io stesso ho cercato di fare sempre in tali circostanze. Mettetevi alla presenza di vostro padre e ditegli almeno: Signore, non so pregare, non mi viene in mente nulla da raccontarti. State sicuri che in quello stesso istante avete cominciato a fare orazione. Devozione filiale. L'adorazione che nasce dalla filiazione divina è un atteggiamento profondo dell'anima che finisce per informare tutta l'esistenza. È presente in tutti i pensieri, in tutti i desideri e in tutti gli affetti. Non avete visto che in famiglia i figli, pur senza rendersene conto, imitano i genitori, ne ripetono i gesti, le abitudini e concordano con loro in tanti atteggiamenti? Lo stesso succede nel comportamento di un buon figlio di Dio. Si arriva, senza sapere come né per quale via, a un meraviglioso deificarsi che ci permette di inquadrare gli avvenimenti col rilievo soprannaturale della fede. Si arriva ad amare tutti gli uomini come li ama il nostro Padre del Cielo e, cosa ancora più importante, si acquista nuovo brio nel nostro sforzo quotidiano di avvicinarci al Signore. Non contano le miserie, ripeto, perché ci sono le braccia amorose di Dio nostro Padre per rialzarci. Se ci pensate, è cosa ben diversa che cada un bambino o che cada un adulto. Per i bambini la caduta generalmente è senza conseguenze, vanno in terra tanto spesso. E se poi sono lacrime, il padre dice, gli uomini non piangono, così si chiude l'incidente perché il piccolo si impegna a fare contento suo padre. Guardate invece che cosa avviene quando perde l'equilibrio un adulto e cade lungo disteso per terra. Se non fosse la compassione a impedirlo, ci sarebbe da ridere. La caduta inoltre può avere conseguenze gravi e in un anziano può produrre una frattura fatale. Nella vita interiore è assai vantaggioso per noi tutti essere quasi modo geniti infantes, come quei piccoli che sembrano fatti di gomma, che sanno godere perfino dei loro capitomboli, perché si rimettono subito in piedi per continuare le loro scorribande, e perché se ci comportiamo come loro, gli inciampi e gli insuccessi, peraltro inevitabili, della vita interiore, non sboccheranno mai nell'amarezza. Reagiremo col pentimento, ma senza sconforto e col sorriso che sgorga come acqua limpida dalla gioia della nostra condizione di figli di Dio, figli del suo amore di Padre, della sua grandezza, della sua sapienza infinita, della sua misericordia. Ho imparato nei miei anni di servizio al Signore ad essere figlio piccino di Dio. È ciò che chiedo a voi. Siate quasi molto geniti infantes, bambini che desiderano la parola di Dio, il pane di Dio, l'alimento di Dio, la fortezza di Dio, per comportarvi d'ora innanzi come veri cristiani. Siate molto bambini, quanto più piccoli tanto meglio. Ve lo dice l'esperienza di questo sacerdote che ha dovuto rialzarsi molte volte nel corso di questi 36 anni, mi sembrano tanto brevi e tanto lunghi, vissuti cercando di compiere un'esplicita volontà di Dio. Una cosa mi ha sempre aiutato, essere rimasto bambino, continuare a rifugiarmi nel grembo di mia madre e nel cuore di Cristo, mio Signore. Le grandi cadute, quelle che capitano e che causano grandi devastazioni nell'anima, talvolta con effetti quasi irrimediabili, procedono sempre dalla superbia, dal credersi adulti autosufficienti. In tali casi prevale nella persona una sorta di incapacità di chiedere aiuto a chi lo può dare, non solo a Dio, ma anche all'amico, al sacerdote, e quella povera anima isolata nella sua disgrazia cade nel disorientamento e nel traviamento. Preghiamo in questo modo Dio perché non voglia mai permetterci che ci sentiamo soddisfatti, perché accresca in noi il desiderio del suo aiuto, della sua parola, del suo pane, della sua consolazione, della sua fortezza. Alimentate l'ansia e la bramosia di essere come bambini. Convincetevi che è il modo migliore di vincere la superbia. Persuadetevi che è l'unico rimedio perché il nostro modo di operare sia buono, grande e divino. In verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Mi ritorna ancora alla memoria quel ricordo di gioventù. Che grande manifestazione di fede. Mi sembra di udire ancora il canto liturgico, di respirare l'aroma del successo, dell'incenso, di vedere migliaia e migliaia di uomini, ciascuno col suo grande cero, che è come il simbolo della loro miseria, ma col cuore di bambini, di creature che forse non osano alzare gli occhi al volto del loro padre. Riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara l'avere abbandonato il Signore tuo Dio. Rinnoviamo la ferma decisione di non allontanarci mai dal Signore per correre dietro alle cose della terra. Aumentiamo con propositi concreti per la nostra condotta la sete di Dio. Come creature che riconoscono la propria indigenza e cercano, chiamano incessantemente il Padre. Ma ripeto, bisogna imparare ad essere come bambini, bisogna imparare ad essere figli di Dio e nello stesso tempo bisogna comunicare agli altri questo atteggiamento che in mezzo alle naturali debolezze ci farà forti nella fede, fecondi nelle opere e sicuri nel cammino. Così, qualunque sia l'errore che possiamo commettere, anche il più disgustoso, non esiteremo a reagire e ritornare sulla via maestra della filiazione divina che si conclude nelle braccia aperte, accoglienti di Dio nostro Padre. Chi di voi non ricorda le braccia del proprio padre? Forse non erano tanto indulgenti, dolci, delicate come quelle della madre, ma quelle braccia robuste, forti, ci davano calore e sicurezza. Signore, grazie per quelle braccia rudi, grazie per quelle braccia forti, grazie per quel tenero cuore e schietto. Stavo per dirti grazie anche per i miei errori. No, perché tu non li vuoi, ma li comprendi, li scusi e li perdoni. È questa la sapienza che Dio si attende da noi nel nostro rapporto con Lui, quasi una manifestazione di scienza matematica. Riconoscere che siamo uno zero, ma Dio nostro Padre ama ciascuno di noi così com'è. Io, che non sono altro che un povero uomo, amo ciascuno di voi così com'è. Immaginatevi allora quale sarà l'amore di Dio, a condizione di lottare, a condizione di impegnarci a dare alla vita l'orientamento dettato da una coscienza ben formata. Piano di vita. Esaminate com'è la vostra pietà, come dovrebbe essere, esaminate poi in quali punti determinati il vostro rapporto personale con Dio dovrebbe migliorare, e se mi avete capito, respingerete le tentazioni di immaginare imprese irraggiungibili, perché avete scoperto che il Signore si accontenta dell'offerta di piccole dimostrazioni di amore in ogni momento. Cerca di attenerti a un piano di vita con costanza, alcuni minuti di orazione mentale, assistere alla Santa Messa ogni giorno se ti è possibile, ricevere la comunione, ricorrere con regolarità al Santo Sacramento del Perdono, anche se la tua coscienza non ti accusa di peccato mortale, la visita a Gesù nel tabernacolo, la recita del Santo Rosario con contemplazione dei misteri e altre pratiche stupende che già conosci o puoi imparare. Non devono diventare norme rigide, compartimenti stagni, indicano un cammino duttile, adatto alla tua condizione di uomo che vive in mezzo al mondo, con lavoro professionale intenso, con dei doveri e delle relazioni sociali, da non trascurare, perché proprio in quei compiti continui a incontrare il Signore. Il tuo piano di vita deve essere come un guanto di gomma che si adatta perfettamente alla mano che lo calza. Non dimenticare che quello che conta non è fare molte cose. Limitati a compiere con generosità quelle cose che puoi fare ogni giorno, sia che ne abbia o non la voglia. Quelle pratiche ti condurranno, quasi senza che tu te ne avveda, all'orazione contemplativa. Germoglieranno sempre di più dalla tua anima gli atti di amore, le giaculatorie, gli atti di ringraziamento e di riparazione e le comunioni spirituali. E tutto ciò mentre assolvi i tuoi obblighi, mentre prendi il telefono o sali su un mezzo di trasporto, mentre chiudi o apri una porta, quando passi davanti a una chiesa, quando inizi un nuovo compito o mentre lo svolgi e quando lo concludi. Farai tutto alla presenza di Dio tuo Padre. Cerca riposo nella filiazione divina. Dio è un padre pieno di tenerezza, di infinito amore. Chiamalo padre molte volte al giorno e digli da solo a solo nel tuo cuore che lo ami, che lo adori, che senti l'orgoglio che ti riempie di forza di essere suo figlio. Gli dai così un autentico programma di vita interiore che ha come perno quelle norme di pietà con Dio, poche, ripeto, ma costanti, che ti permetteranno di acquistare i sentimenti e le maniere di un buon figlio. Devo ancora metterti in guardia contro il pericolo della assuefazione, vera tomba della pietà, che si presenta di frequente mascherata dall'ambizione di realizzare e di intraprendere gesti importanti, mentre si trascura per comodità il dovere quotidiano. Quando avverti questa tentazione, mettiti sinceramente alla presenza del Signore. Pensa se il tedio di dover lottare sempre sullo stesso punto non dipende dal fatto di non aver cercato Dio. Guarda se è venuta meno, per mancanza di generosità, di spirito di sacrificio, la perseveranza fedele nel lavoro. In questa situazione l'enorme pietà, le piccole mortificazioni, l'attività apostolica non ottiene frutto immediato. Ci appaiono tremendamente sterili. Siamo vuoti e forse cominciamo a sognare nuovi progetti per far tacere la voce del nostro Padre del Cielo che reclama lealtà totale. E con l'anima ossessionata dalle grandi cose lasciamo da parte la realtà più sicura, il cammino che senza dubbio ci conduce direttamente alla santità. Segno certo che abbiamo perso la prospettiva soprannaturale che è venuta meno la convinzione di essere bambini piccini, come pure la persuasione che nostro Padre opererebbe in noi meraviglia se ricominciassimo con umiltà. Segnali indicatori. Porto impresso nella mia mente fin da bambino il ricordo di certi segnali che nelle montagne della mia terra venivano piantati ai margini delle strade. Si trattava di lunghi pali, generalmente dipinti di rosso, che colpivano la mia attenzione. Mi spiegarono che quando cade la neve e copre sentieri, campi e prati, boschi, rocce, dirupi, quelle aste risaltano come un riferimento sicuro, perché tutti rintraccino il cammino da seguire. Nella vita interiore succede qualcosa di simile. Ci sono primavere ed estati, ma arrivano anche gli inverni, i giorni senza sole e le notti senza luna. Non possiamo permettere che il rapporto con Dio dipenda dal nostro umore, dai mutamenti del nostro carattere. Cadere in questa volubilità vuol dire egoismo, comodità, cose che non vanno d'accordo con l'amore. Perciò nei momenti di neve e di tormenta alcune solide pratiche di pietà, per nulla sentimentali, saldamente piantate e adattate alle circostanze di ciascuno, saranno come i pali dipinti di rosso, che continuano ad indicare la direzione finché il Signore farà splendere di nuovo il sole. Allora si scioglierà il gelo, il cuore continuerà a vibrare, acceso da un fuoco che in realtà non si è mai spento. Era rimasto come brace nascosta dalla cenere, la cenere del tempo, della prova e quella di un periodo di minore impegno o di scarso sacrificio. Non mi nascondo che nel corso degli anni mi hanno avvicinato persone che con dolore mi hanno detto: «Padre, non so che cosa succede, ma mi sento stanco e freddo. La mia vita di pietà, prima tanto sicura e semplice, mi sembra divenuta una commedia». A chi si trova in questa situazione e a tutti voi rispondo: una commedia, benissimo. Il Signore sta giocando con noi, come un padre coi figli. Si legge nella scrittura: «Ludens in orbe terrarum». Dio si ricrea sul globo terrestre e non ci abbandona. Infatti subito aggiunge: «Delizie mee esse cum fidi somnium». Ho posto le mie delizie fra i figli dell'uomo. Il Signore gioca con noi. Quando ci sembra di stare facendo la commedia, perché ci sentiamo freddi, apatici, quando siamo annoiati e senza volontà, quando ci riesce difficile compiere il nostro dovere e raggiungere le mete spirituali che ci eravamo prefissi, è giunta l'ora di pensare che Dio gioca con noi e attende che gli rappresentiamo la nostra commedia con bravura. Non mi importa dirvi che il Signore in certe occasioni mi ha concesso molte grazie. Di solito però vado contropelo, seguo il mio piano non perché mi attrae, ma perché devo farlo per amore. Ma padre, si può fare la commedia con Dio, non è ipocrisia? Stai tranquillo, per te è venuto il momento di recitare una commedia umana davanti ad uno spettatore divino. Persevera, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo contemplano la tua commedia. Fa tutto per amore di Dio, per fargli piacere anche se ti costa. Che bella cosa essere giullare di Dio. Che cosa buona recitare la commedia per amore, con sacrificio, senza cercare la soddisfazione personale, per piacere a Dio nostro Padre, che gioca con noi. Mettiti di fronte al Signore e confidagli. Non ho nessuna voglia di fare la tal cosa, tuttavia la offrirò a te. Poi falla davvero, anche se pensi che sia una commedia. Benedetta commedia. Ti assicuro che non è ipocrisia, perché gli ipocriti hanno bisogno di pubblico per la loro messa in scena. Invece gli spettatori della nostra commedia, lasciami ripetere, sono il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Vergine Santissima, San Giuseppe, tutti gli angeli e i santi del cielo. La nostra vita interiore non racchiude in sé altro spettacolo che questo, questo che passa quasi in occulto, quasi nascosto. Jubilate Deo, esultate Deo adiutori nostri. Acclamate Dio e esultate in Dio nostra forza. Gesù mio, chi non lo comprende non sa nulla di amore, né di peccato, né di miseria. Io sono un povero uomo e conosco i peccati, gli amori e le miserie. Sapete che cosa significa essere innalzato fino al cuore di Dio? Comprendere che cosa vuol dire Un'anima che si ponga di faccia al Signore, gli apra il suo cuore, gli racconti i suoi crucci. Io mi lamento, per esempio, quando egli chiama a sé persone giovani che vorrebbero amarlo e servirlo ancora molti anni sulla terra. È una cosa che non capisco, ma sono gemiti pieni di fiducia, perché so che se mi allontanassi dalle braccia di Dio, incespicherei immediatamente. Pertanto, mentre accetto i disegni del cielo, aggiungo subito, scadendo bene, sia fatta, si compia, sia lodata ed eternamente esaltata la giustissima e amabilissima volontà di Dio su tutte le cose. Amen, amen. E questo è il modo di comportarsi che ci insegna il Vangelo. E questa è la sagacia santa e la fonte di efficacia per il lavoro apostolico. E questa è la sorgente del nostro amore e della nostra pace ai figli di Dio, è il sentiero che ci conduce a trasmettere affetto e serenità agli uomini. Solo così potremo terminare i nostri giorni nell'amore, dopo aver santificato il nostro lavoro e aver cercato in esso la felicità nascosta delle cose di Dio. Ci comporteremo con la santa faccia tosta dei bambini e respingeremo la vergogna, l'ipocrisia degli adulti che hanno paura di tornare al loro padre quando hanno sperimentato l'insuccesso di una caduta. Termino col saluto del Signore che è raccolto nel Santo Vangelo di oggi. Pax vobis, pace a voi. E i discepoli gioirono al vedere il Signore che ci conduce al Padre.